E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, vi dico innanzitutto di cosa non torneremo a parlare. Non torneremo sulla vicenda di Bolzano, molti messaggi, mail che ci sono arrivate, nessuno contesta il fatto che la provincia autonoma di Bolzano e di Trento siano province ben gestite, che sappiano investire i soldi senza sprechi, sono un modello. Si è solo detto che, vista la dichiarazione del Presidente della provincia che non voleva festeggiare l'Unità d'Italia, insomma ogni tanto dicessero anche un grazie per i 2.000 euro in più che ricevono rispetto a quanto versano, a differenza di Lombardia, Veneto, Trentino, Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna. Chiuso il tema, invece di cosa parleremo? Oltre che dei mercati, debole oggi Milano, meno 0,60%, invariate sostanzialmente le altre borse europee, tranne Londra che perde come Milano, meno 0,70%. Parleremo da un lato di questo viaggio che a noi ci fa impazzire. Il ministro Tremonti oggi sono tornati su con un pulmino da 15 posti, il ministro Tremonti, il segretario della UIL Angeletti, il segretario della CISL Bonanni, hanno scoperto, tra virgolette, che il sistema ferroviario al sud non funziona poi così bene, hanno scoperto anche quanto è difficile rientrare una volta arrivati a Reggio Calabria, anche semplicemente in auto, con un pulmino, uno zig zag lungo la A3, ma lo racconteremo con uno dei partecipanti. Poi invece, venendo a cose ancora più serie, dopo tra virgolette il debole, questo giudizio di Confindustria in primo luogo, il debole apporto che è arrivato al Consiglio dei Ministri di ieri per la crescita economica, ha ottime iniziative ma con scarso impatto immediato, cercheremo di raccontare quello che è un disegno di legge presentato da un parlamentare del PDL, ma che ha avuto un ampio consenso a livello bipartisan, si chiama DDL Vignali, che prevede delle cose molto importanti, soprattutto in tema di tassazione delle imprese, imposizione fiscale massima sulle imprese, rapporti con la pubblica amministrazione, è tutto dedicato alle piccole e medie imprese, e che avendo già un'accoglienza bipartisan potrebbe obiettivamente essere approvato in tempi brevi. Ancora nella seconda parte del programma ci occuperemo invece di evasione fiscale, perché oggi l'Agenzia delle Entrate ha diffuso i dati sul 2010, buono il recupero sulla parte soprattutto di pertinenza dell'Agenzia delle Entrate, più 12% rispetto al 2009, ma lo stesso direttore generale Attilio Befera ammette che la lotta all'evasione procede anche se lentamente, e lo avremo nostro ospite alle 18:10. Questi temi principali, rapidamente le notizie in breve, 349-238-6666 per i vostri SMS. Dicevamo Milano tra le più deboli, Parigi invece è quasi invariata, meno 0,1, così come invariata è Francoforte, l'America perde lo 0,3%, ma dicevamo di Milano e su Milano pesano soprattutto Saipem, meno 3,40, Banco Popolare, meno 3,1, Mediolanum, meno 2,70, Popolare di Milano, meno 2,20, ST Microelectronics, meno 1,80, come Intesa San Paolo, Diasorin, meno 1,60, Azimut, meno 1,40, come Monte dei Paschi e Luxottica e Mediobanca e anche Unicredito. Fiat, Autogrill e l'Automatica perdono invece l'1,3%, Fiat intesa come Fiat Auto. Chi guadagna? Fondiaria SAI l'1% come Snam Rete Gas, che oggi diffonde i dati, Terna più 1% e Fiat Industrial, ossia auto e camion, più 0,80% come Parmalat, Enel Green Power mezzo punto percentuale di rialzo. Allora, il diario della crisi, torna a salire il rischio debito misurato sui paesi chiamati, a me non piace come termine, periferici. Non è, periferici forse geograficamente, ossia Portogallo, Spagna e Grecia, anche l'Italia oggi. I CDS, cioè il premio che si paga per assicurarsi contro il rischio fallimento se si è comprato il debito di uno di questi paesi, ebbene è tornato a salire in Portogallo, in Grecia e anche in Italia. La differenza tra quanto rende un'obbligazione portoghese e un'obbligazione tedesca è tornata ai massimi da fine novembre. Nel frattempo però la Banca Centrale Europea è tornata a comprare titoli di Stato portoghesi. Il tesoro italiano ha collocato in asta oggi 7 miliardi e mezzo di bot, buona la domanda, quasi il doppio, ma soprattutto rendimenti in calo, e questa è una buona notizia. Bollettino della Banca Centrale Europea, in cui è difficile trovare invece una notizia, insomma qualche frase fatta se ce lo permettono: la ripresa prosegue, il mercato del lavoro è stabile, sì stabile ma sotto i livelli pre-crisi. Sale allerta per l'inflazione, bisogna attuare il risanamento dei conti. Vabbè, le solite cose della Banca Centrale Europea. E ancora l'industria invece italiana segnala un buon dato nel 2010, complessivamente, anche se c'è stata una frenata a fine 2010, più 5,5%, lo segnala il centro studi dell'Istat. Resta un forte divario rispetto ai tempi pre-crisi, il calo fu di quasi il 20%. Quali settori meglio si sono mossi come produzione industriale nell'anno che si è appena chiuso? Beh, la meccanica più 12%, l'elettronica più 5% come produzione industriale, e anche i mezzi di trasporto più 5%, il tessile, l'abbigliamento e calzature più 5,5%, la chimica più 6,6%, alimentare al palo appena l'1,6%. Vedo già molti messaggi sull'evasione fiscale, ne parliamo nella seconda ora del programma. Recuperati 25 miliardi e mezzo, di cui appunto 16 quasi di pertinenza dell'Agenzia delle Entrate. Scoperti poi dall'INPS 70.000 lavoratori in nero. Va bene, prima di arrivare agli altri temi, allora io vorrei, ma lo dico senza nessun tipo di... non vogliamo fare colore, ma insomma, 150 anni fa, visto che celebriamo il 17 marzo, 150 anni della Repubblica, un po' di meno in realtà, dell'Unità d'Italia, scusatemi, un po' di meno, ma vi fu un famoso viaggio di alcuni parlamentari dell'allora Regno d'Italia, tra cui Sidney Sonnino, al sud, un viaggio che servì per, lo dico con la massima serietà, per scoprire un'area che non si conosceva, che i piemontesi e il lombardo-veneto definivano simile all'Africa, e si scoprirono cose, un bellissimo rileggere quel viaggio di quei parlamentari che si spinsero nelle Calabrie, nella Sicilia, e scoprirono zone di estremo disagio. A distanza dei 150 anni, tre, Garibaldini no, ma insomma tre esponenti, due del sindacato e uno, il ministro dell'economia italiano Giulio Tremonti, ieri a sorpresa sono partiti per un viaggio in treno da Roma a Reggio Calabria. La notizia prima di tutto è che sono tornati, anche questo non era necessariamente scontato, e sono tornati oggi con un pulmino, ma il viaggio ha incuriosito tutti, anche perché obiettivamente nessuno lo sapeva, a partire dal numero uno delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti. Allora vediamo di raccontarlo. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te, ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Luigi Angeletti, segretario della UIL, buonasera. Buonasera. Ha visto che non abbiamo messo Guccini, l'avevo promesso. No, mi piace. La locomotiva, piace a tutti i Guccini, però insomma. Allora, lei era uno dei tre partecipanti, lei, il Raffaele Bonanni, che è il segretario generale della CISL, e il ministro Giulio Tremonti. Io vorrei usarla come cronista, a costo zero, segretario, perché non abbiamo... ecco. Però mi racconti un po', ieri il ministro Tremonti ha fatto il Consiglio dei Ministri e poi all'improvviso ha detto: io parto per il Sud. A voi quando ve l'ha comunicato? No, noi ci eravamo ovviamente messi d'accordo qualche giorno prima. Ah, in segreto, però non lo sapeva nessuno. È ovvio, perché se avessimo fatto una cosa ufficiale si sarebbe trasformata in una, non so che cosa, un circo, dai. Folclore, sì, qualcosa di... Allora, voi avete preso alle 12 da Roma un Frecciarossa diretto a Napoli con un salutino riservato, e lì c'è poca storia. La storia inizia quando arrivate a Napoli Centrale. alle 13.58 in perfetto orario parte l'Intercity diretto a Siracusa. In che classe avete viaggiato sull'Intercity? In seconda. Sacca sulle spalle, abbiamo visto le foto, abbigliamento sportivo, camicia, maglioncini. Insomma, mi dica un po', quando siete saliti sul treno in seconda classe, vi hanno riconosciuto? Sì, penso sì, qualcuno sì. Qualcuno sì, e altri no. Insomma. Altri, non credo, non so, e comunque non, nessuno ha, come dire, ha dato mostra di riconoscerci. Ah, quindi avete cercato di mantenere l'anonimato. Il treno da chi era composto? Chi c'era su questo treno? Parlo in questo caso del Napoli Lamezia Terme. Poi c'era un sacco di passeggeri normali. Studenti. Allora, c'era di tutto, non è che abbiamo fatto un sondaggio per vedere chi erano gli utenti della. No, però sa, noi abbiamo ricevuto anche le nostre informazioni. Dopo un quarto d'ora il ministro Tremonti va in bagno. E questo, diciamo. È vero che è tornato sconsolato dal bagno? Sì, no, è tornato dicendo, c'era il sapone, ma quando ho cercato di pulirmi le mani dal sapone, ho visto che non c'era l'acqua. Che è un'esperienza che devo dire che chiunque ha preso un interregionale, dai, gli sarà successo nella vita di fare prima il sapone e poi restare con le mani così, non è successo solo a noi. Vabbè, e a quel punto voi non ci siete più andati in bagno però? Io ci sono andato, ma non mi sono lavato le mani. Vabbè, questo era vabbè, non so, non mi era è peggio il taccone del buso, come dicono in Veneto. Vabbè, comunque, lei è andato in bagno. È vero che ha chiamato l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Moretti, sorpresissimo, e Tremonti gli ha fatto una specie di cazziatone sulla condizione dei bagni? No, ha chiamato Moretti, dice, presumo, perché io non ovviamente ho ascoltato solo le risposte, quindi presumo che gli abbia chiesto che comandava, e ho ascoltato Tremonti dire sì, ma nei bagni mancava l'acqua. Non ha fatto nessun calciatore, ovviamente, ha solo detto... Cioè lui non vi ha detto poi... Ha ascoltato quello che gli era capitato. Ma non vi ha detto, sento Moretti preoccupato, no? Questo non è... No. E dov'è che avete pranzato? Perché su un Intercity come quello non è che ci sia molta offerta. No, e niente, non abbiamo... Non avete pranzato? Io ho mangiato un po' di pizza prima di salire sul treno. Ma neanche un po' d'acqua, niente? No, acqua, sì, acqua. Cioè, io capisco i tagli di Tremonti, però, Angeletti, no? No, quelli ho pagati io, quindi non c'entra nulla. Ah, li ha pagato lei l'acqua e i panini? E l'acqua e la pizza, certo. Ah, ha pagato lei. Beh, anche questo è importante, perché insomma il sindacato... No, io ho pagato per me, eh. Ah, lei ha pagato per sé e... Per me, per l'ha detto stampa. E Bonanni ha pagato per sé? E Bonanni non so neanche che cosa, ma non so se ha preso un caffè, ma sì, ma per conto suo. E Tremonti ha pagato per sé? E Tremonti sì, avrà pagato per sé, perché ognuno ha provveduto per conto proprio. Va bene, in autonomia, per non avere commistioni. Mi dica una cosa, come mai eravate lei, quindi la UIL, la CISL, il ministro e non la CGIL? Cioè, anche nel viaggio in treno non siete riusciti ad avere un accordo con la CGIL? No, perché se no abbiamo cercato di fargli un favore, perché siccome la CGIL parla solo delle cose che facciamo noi, e se no che cosa avrebbe potuto dire? Non parla mai delle cose che fa la CGIL, no? Io leggo solo le dichiarazioni che riguardano quello che fa, cioè, che fa la UIL o la CISL. Se l'avessimo portata, di che cosa parlava? Vabbè, però potevate portarla a Camusso, no? No, ho detto, cioè, cercato di fare un favore, no? Se no di cosa avrebbe potuto parlare? Invece ha avuto un'occasione di dare dei giudizi, come sempre, sulle cose che fanno gli altri. Fa la critica d'arte. Ho capito, però anche Emma Marcegaglia ieri ha detto, insomma, a me nessuno me l'ha detto, non potete portarvi a Musso la Marcegaglia, almeno facevate un viaggio in cinque, anche con due signore... Potevamo portare un sacco di gente, così trasformavamo... Beh, no, un sacco di gente, una è la segretaria della CGIL, l'altra è la presidente di Confindustria. No? No, con un fatto folcloristico, potevamo portare un po' di imprenditori... No, ma non dico la delegazione sul treno, però... anche il presidente di Confindustria e il segretario della CGIL, no, non veniva meglio per capire, no, non... c'è stato di meglio, era una cosa solo, diciamo, un raduno tra maschi, una cosa da addio al celibato, non so, mi faccia capire perché c'è stata un'esclusione della CGIL anche in questo caso, mamma mia. Vabbè. No, io sulla CGIL ho detto, abbiamo cercato di fare una cosa che andasse a favore della CGIL, essendo lei praticamente dedita a dare giudizi sulle cose che fanno gli altri, se la portavamo gli avremmo impedito di fare quello che gli riviene meglio. E la Marcegaglia perché? E la Presidente Confindustria perché no? Perché la Presidente della Confindustria non c'è manco venuto in testa. Vabbè, questo è importante. Quindi avete fatto un favore alla Camusso, questo ho capito. Vabbè, torniamo al vostro viaggio. Perché a questo punto voi arrivate, io ve lo voglio raccontare nel dettaglio, arrivate anche abbastanza in orario a Lamezia Terme e lì c'è un nuovo cambio. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te, ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Perché avete a questo punto fatto la scelta più coraggiosa di sempre, quasi no limits come avventura. Avete preso l'interregionale da Lamezia Terme a Reggio Calabria, che non ha nemmeno la classe, giusto? Sì, giusto. Ma che è successo? È vero che in stazione Lamezia Terme vi hanno riconosciuto la stazione era pulita, Tremonti si è messo a citare Goethe, Ferdinando di Borbone, Garibaldi, Cavour, Parmenide, Zenone? No? Non so. No, me lo dica. La stazione era pulita e evidentemente già erano stati informati dell'arrivo del ministro, quindi non so se sono venuti a riceverlo, insomma, a parte i giornalisti ovviamente. Delle personalità, non ho idea perché è una cosa che non mi sono neanche avvicinato, mi accorto. E niente, poi siamo ripartiti a Reggio Calabria e abbiamo voluto fare esattamente che era il senso di questo viaggio, non avvertire nessuno per evitare che il viaggio appunto fosse in qualche modo aiutato, no? Cioè c'era anche questa realistica probabilità che se il ministro fosse stato, come dire, se fosse stati avvertiti che il ministro andava a Reggio Calabria. No, ma è chiaro. Allora, è vero che invece abbiamo cercato di fare tutto in modo per vedere che cosa concretamente accade, no? E cioè, per farlo ovviamente poi raccontare, perché a questo serviva, concretamente accade a chi. Infatti, ho una domanda anche su cui da Napoli a Reggio Calabria con mezzi normali. Allora, ho due domande anche su questo. Però è vero che Tremonti ha detto che mentre al nord i moscerini si spiaccicano contro i vetri, quelli del sud no, perché sono più veloci i moscerini dei treni? No, questo l'ha detto quando è tornato. Ah, ha detto quando è tornato. Sì, sì, poi c'è un'altra cosa. Un giornalista che gli chiedeva appunto il viaggio, che senso, e lui ha fatto questa considerazione. Dice, vedete, dice, quanti moscerini ci sono sul treno? Ecco, dice, quello andava molto veloce, quindi i moscerini... Poi alle 17.30, quando siete a Rosarno, quasi arrivate a giocare via Tremonti, deve andare di nuovo in bagno. Questa è una fisiologica esigenza del ministro. E che è successo quando è andato in bagno per la seconda volta a Tremonti? Questo francamente mi è successo. Perché lui dice che quella volta ha trovato l'acqua ma mancava il sapone, cioè non posso confermare, questo mi è sfuggito, allora, questo particolare. Allora adesso, visto che abbiamo anche scherzato, perché io l'ho trovata anche una cosa obiettivamente con un certo tasso di ilarità, vengo alla parte seria nel concludere questa intervista. Che responsabilità ha il sindacato, secondo lei, nella situazione in cui versano le ferrovie dello Stato, soprattutto al sud? E cioè, oltre al fatto, abbiamo letto dichiarazioni sui i mancati investimenti, le linee infrastrutturali, si è preferito fare solo l'alta velocità, quello che volete, però forse anche qualche resistenza sindacale Moretti l'avrà trovata, no? A far funzionare meglio le ferrovie, non dubito. No. Da parte nostra, nelle resistenze ne avrà trovate moltissime, da parte nostra no. Abbiamo un sacco di difetti, abbiamo pure fatto molti errori, ma questo non credo che di potercelo addebitare. E secondo lei è normale, civile, visto che insomma lei l'ha fatto il viaggio a questo punto ed era un po' che non lo facevate, mi sembra di aver capito, è civile viaggiare in questo modo? Perché tra l'altro molti ci segnalano che la stessa condizione dei pendolari c'è anche in altre tratte, anche al nord, per carità. Cioè, come l'ha trovata? L'ha trovata una cosa civile, accettabile, oppure non degna di un paese che era la sesta economia al mondo? Mi dica. Allora, il viaggio che abbiamo fatto dimostra che ci sono due Italie, ed era esattamente quello che volevamo far vedere, non che non lo sapessimo, tutti quanti lo sanno che ci sono due Italie, però poi spesso e volentieri rimuoviamo il problema. Per quanto riguarda invece i pendolari, sì, quello non era neanche un treno dei pendolari, perché i treni dei pendolari sono anche peggio. Quindi la prossima volta prendete il treno. Non solo in Calabria, dove sono. Basta fare quei tratti che noi non abbiamo ovviamente potuto fare per motivi di tempo, che invece sulla costa di Reni vanno sullo Ionio. No? Che sono cose. Quelle sì, da paese in civile. Ci sta. Qui non era un paese, come dire, questo non è un paese in civile, è un paese dove mancano, dove che ha la metà delle infrastrutture del nord. Ma alla fine del viaggio, mi dica una cosa, ma alla fine del viaggio Tremonti vi avrà detto bisogna investire di più per il sud, oppure c'è, cioè, qualcosa ne è uscito al di là del fatto, insomma, che abbiate fatto questo simpatico viaggio fino a Reggio Calabria? Cioè, c'è stata una valutazione anche del Ministro dell'Economia con voi due, che siete due dei maggiori sindacati in Italia? Certo. Non me la può raccontare? E che esistono dei problemi che non riguardano però la quantità di denaro che viene investita per fare le infrastrutture del sud, perché in tanti anni le infrastrutture di soldi sono stati impiegati, no? Ma i risultati sono stati modesti e siamo generosi. E da che cosa dipende? Da un po' da alcune leggi, tipo quella sugli appalti, su come sono organizzati gli appalti, su quanto costa fare opere pubbliche in Italia e sui ritardi e le responsabilità di questi ritardi nel investire e nell'utilizzare i soldi che ci sono. E le dico solo una cosa, dei soldi che ci sono, no? Non quelli che promessi, o, no, di quelli che sono già, che ci sono, sono stati già stanziati, ne è stato impiegato il 18%. E la responsabilità purtroppo è in gran parte prevalente della classe dirigente del sud, delle regioni meridionali, degli amministratori. Perché, il governo si può dire metti pochi soldi, che è la responsabilità del governo, ma una quando il governo ne metterà pochi ma li mette, o per meglio dire l'Europa, perché sono più quelli europei, sempre soldi nostri, chiaro, perché l'Europa non è che li stampa, sono i nostri soldi che trasferiamo. No, quando i soldi europei, quindi pubblici o nazionali, ci sono e non vengono utilizzati, non possiamo continuare a dire mancano i soldi. Mi scusi, in una battuta, quale è l'alibi che abbiamo, che ci sono, però, e che qualche volta è stato avallato per 10 anni, 20 anni, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo due paesi, l'anno in cui festeggiamo l'unità d'Italia. Segretario, in una battuta però, che adesso vorrei chiudere, avete chiesto a Tremonti però di sbloccare anche i soldi, i fondi FAS, i fondi per le aree sottosviluppate? Certo, se le utilizzassero. Ma gli avete chiesto ieri in via, cioè, avrete parlato di qualcosa, no? Mica di. Sì, no, abbiamo parlato di tutte queste cose qua, di come modificare le norme, di come trovare le risorse, di come fare in modo che queste risorse vengano utilizzate. Di queste cose abbiamo ovviamente parlato. E il prossimo viaggio, visto che mi sembra che l'esperienza vi sia se è stata educativa, vi sia piaciuta, il prossimo viaggio un treno pendolari? Magari Ferrovie Nord, Milano, non so, per cambiare. Esatto, il prossimo viaggio bisognerebbe fare pendolari, però questa volta invece di portare il ministro dovremmo portare il presidente di quella regione. Fate Formigoni, fate Cota. Dovunque andiamo, vabbè. Tanto in ogni regione c'è un presidente e ci piacerebbe tanto poter discutere con quel presidente, chiunque esso sia, come spende i soldi e a partire da quanti ne spende per far funzionare la struttura politica della sua regione, le consulenze e quant'altro. Ce l'abbiamo. Da lì vorrei partire. Quando diciamo pochi soldi, ok, ma avete avuto delle riduzioni dei costi? Guardi, visto che ci siamo, c'è uno... pure voi fatto qualche sacrificio? Sì, c'è un ospedale che stiamo seguendo a Roma, Santa Lucia, cura i bambini con problemi neuromotori, riducono i posti letto e poi l'aggiunta e altri soldi. Anche quella è un'indicazione che lasciamo, è un tema che stiamo seguendo qualche giorno, segretario. Perfetto, ottimo, questo sì che è molto educativo. Segretario, a questo punto buon viaggio. Grazie. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora. Devo dare qualche risposta però ai numerosi messaggi che sono arrivati nel racconto che ci ha fatto il nostro cronista, così l'abbiamo chiamato, Luigi Angeletti, del viaggio con Bonanni e Tremonti. E anche, visto che spesso ci chiedete ma che cosa fare, portate anche qualche proposta positiva, noi facciamo il possibile. E ce n'è una che è un disegno di legge che ha un'accoglienza bipartisan per aiutare le piccole e medie imprese anche da un punto di vista fiscale. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, molti di voi dicono ma insomma adesso si accorgono che i bagni non hanno l'acqua, che delle volte sono chiusi, spesso sono chiusi, o che hanno l'acqua non hanno sapone, se c'è il sapone non c'è l'acqua. La distanza con la vita comune delle persone si misura anche da queste cose, per cui per quello che era importante raccontare questo viaggio, al di là di qualche battuta che fa qualcuno, era importante. E poi appunto Tremonti scopre che non c'è l'acqua e molti di voi ci scrivono ma noi lo sappiamo sempre che non c'è l'acqua, non c'è il sapone. E invece trovo che l'iniziativa sia giusta anche la facessero in Lombardia, montassero su in Lombardia, in Piemonte, in Veneto, montassero sugli interregionali quelli dei pendolari che tutte le mattine ci vanno e vediamo come sono, se riescono a montare, quello sarà il problema. Vabbè. Onorevole Vignali, deputato del PDL, collaboratore tra l'altro del ministro dello sviluppo economico Romani, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, dopo aver raccontato il viaggio del suo collega di partito Giulio Tremonti, veniamo invece alle proposte non serie, perché secondo me il viaggio invece è serissimo, e alle proposte per le imprese. Molte critiche sono arrivate al Consiglio dei Ministri di ieri, perché hanno detto, la Confindustria in primis, insomma non c'è moltissimo, buone le intenzioni, va bene l'articolo 41, ma non c'è moltissimo per rilanciare l'economia. Il premier si aspetta l'1,5%, le stime che noi abbiamo a disposizione, Istat e Centro Studi Confindustria, dicono che 0,8-0,9, speriamo che abbia ragione Berlusconi. Ma lei ha un disegno di legge che è ancora in Parlamento, che si chiama Norme per la tutela della libertà d'impresa, Statuto delle imprese. L'ha messo a punto il vicepresidente della Commissione Tratta Produttiva della Camera, quindi lei, e ha ricevuto un sostegno bipartisan, cioè 130 parlamentari di centrodestra e centrosinistra. Ci racconta cosa prevede questo disegno di legge? Sì, volentieri. No, l'unica cosa che volevo dire sul Consiglio dei Ministri di ieri, che c'è anche secondo me un importante decreto, quello sul riordino degli incentivi, che per la prima volta fissa un tetto minimo di incentivi destinati alle piccole e medie imprese, che no, insomma, non mi sembra una cosa... No, diciamo, ma non, è, non ho detto che non sì, sia... Che non, sì, sì, ho sì, detto sì, semplicemente no, che se da lì vogliamo fare il doppio del PIL, auguri, tutto qua, questo per sintetizzare. Dai. Vignali, lei è una persona intelligente, sa di cosa sto parlando. Invece, a parte che arrivano i consigli dei pendolari, il Padova Calalzo, farà il Padova Calalzo, Tremonti con o Zaia con i sindacalisti. Ma torniamo alle cose nostre. Cosa prevede il suo disegno di legge? Ma dunque, innanzitutto nasce da un'idea molto semplice, se vogliamo, cioè che PIL e occupazione lo creano le imprese. E quindi noi dobbiamo creare un assetto per cui innanzitutto si riconosca il valore economico e sociale delle imprese e si dia loro più libertà. Primo. Secondo, che tenga presente anche della peculiarità del sistema italiano, che è fatto nella quasi totalità di micro e piccole imprese, mentre invece noi abbiamo tutte le norme i sistemi storicamente degli incentivi e tutto tagliato sulle grandi. No, io non ho nulla contro le grandi, anzi, se ce ne fosse qualche migliaio in più sarei felice, no? Però la situazione, la realtà è questa. Quindi sostanzialmente lo statuto, che ormai fra l'altro ha raggiunto quasi 150 firmatari, perché pian piano se ne sono aggiunti anche altri, prevede diverse cose. Innanzitutto prevede un cambiamento nei rapporti con le istituzioni. Innanzitutto l'obbligo per l'istituzione a valutare ex ante l'impatto delle norme e dei regolamenti sulle micro, piccole e medie imprese. Secondo il principio dello Small Business Act, quello che va bene ai piccoli va bene a tutti. Spesso si introducono norme che allo Stato non costano nulla, in realtà costano anche allo Stato, ma che però costano tantissimo alle imprese. Allora, innanzitutto bisogna che si valuti prima di aggravare il carico degli oneri delle nostre imprese, perché questo poi diventa minore competitività. Prevede che, ad esempio, che ci sia, che vengano pubblicati dalle Camere di Commercio gli obblighi per le imprese e che i controlli si possano fare solo su quello che è pubblicato, cioè fine della discrezionalità. Chi conosce le imprese, vive con le imprese, sa che problemi ci sono, anche sul dettaglio più banale. Io faccio sempre l'esempio del rubinetto del bagno dei dipendenti, che arriva il funzionario dell'ASL, dice no, quello non va bene, ci vuole quello con la cellula fotoelettrica, arriva il vigile del fuoco e dice no, ci vuole quello a pedale, arriva un altro della stessa ASL e dice no, ci vuole quello che si chiude col gomito. Allora, scriviamolo prima, se è scritto quali ci deve essere lo sappiamo e lo facciamo, se non c'è scritto però nessuno può chiedere ulteriori obblighi. No? Prevede il silenzio a senso sistematico, per cui a un'istanza sì, presentata dall'impresa, ecco, ci sia il silenzio. Io volevo capire una cosa, Vignali, perché sono le cose che lei ha suggerito sono tutte importantissime. Cioè, c'è il tetto alla tassazione minima sull'impresa al 45% degli utili, l'impossibilità per lo Stato di chiedere versamenti se è debitore di un'azienda, mi sembra il minimo, no? Lo Stato mi deve dei soldi, mi chiede anche i versamenti. L'introduzione sistematica del silenzio assenso nei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione. Il sostegno alle piccole e medie imprese, cui verrebbe garantito il 50% degli incentivi per innovare e internazionalizzare. Domanda, Vignali, ma perché invece di fare un Consiglio dei Ministri non approvate in Parlamento questo decreto, questo disegno di legge? Allora, la Commissione Attività Produttive ha già finito l'esame, abbiamo fatto fra l'altro audizioni non per finta ma sul serio con le associazioni delle imprese, da quelle di Rete Impresa Italia, Confindustria, ma anche coi comuni, le regioni, per cercare di trovare un assetto che poi possa funzionare, e ne abbiamo tenuto conto e abbiamo lavorato molto sul testo. Stiamo aspettando il parere della Commissione Bilancio, che è vincolante. Attualmente insomma stiamo lavorando perché possa andare in aula. Ma secondo lei Tremonti glielo fa passare o costa? Ma dunque, ci sono alcune due aspetti che costano. Uno è sicuramente quello dei principi fiscali. Lì certo. Sostanzialmente c'è una delega al governo per una riforma fiscale che non è che chiede cose assurde, chiede quello che chiedono tutte le imprese da tempo. Cioè, intanto la norma per cui c'è un limite alla tassazione, noi abbiamo una tassazione che, se rapportata agli utili, secondo la Banca Mondiale è al 68,7%. Sì, no, ho capito, però mi dica una cosa, intanto siamo solo io e lei, ma secondo lei passerà, oppure Tremonti, come vede che voi volete con questa legge, fare in modo che le imprese che hanno dei debiti con lo Stato, ci sono circa 40 miliardi di euro che lo Stato deve alle imprese, possono non pagare le tasse, ve la boccia. Una previsione. Resta in Camera Caritatis. No, in Camera Caritatis stiamo discutendo in modo serio, perché è assurdo che lo Stato, se uno deve un euro, gli blocca i pagamenti, magari lo Stato a lui deve un milione. Questo io credo che non sia degno di un paese civile. Cioè, se lo Stato vuole che i cittadini, gli imprenditori, giustamente rispettino le norme, poi anche lo Stato deve essere il primo a rispettare. Insomma, non me la vuole dare perché in realtà la risposta... siamo in discussione, ovviamente abbiamo... La risposta Abbiamo visione. No, se no la facciate già passare. Abbiamo previsto una delega al governo con alcuni principi, poi... Io mi auguro che passi, perché... La scriva Tremonti, anch'io mi auguro. L'ha proposto lei. Però dico, anche perché dentro, a parte qualunque logica politica, ci sono dei principi di buon senso. Per cui quando poi si parla di PMI, di piccole e medie imprese, degli artigiani, basterebbe fare il disegno di legge Vignali, faccio lo sponsor oggi, e lì ci sarebbe già tanto su questo. In bocca al lupo, anche se penso che obiettivamente su questo la resistenza del ministro Tremonti saranno fortissime. Comunque, grazie all'onorevole Raffaello Vignali. Allora, meno 0,40%, Fondiere Assai più 1,40%, SNAM adesso la commentiamo più 1,22%, Terna più 1%, Guido Maurino, buonasera. Buonasera. Hai una missione impossibile, 2 minuti di borsa, perché poi devo parlare, vorrei parlare se ci riesco, con il numero uno di SNAM Rete Gas, che oggi ha presentato i conti. Banco Popolare, domani è l'ultimo giorno per l'aumento di capitale. Domani è l'ultimo giorno di aumento di capitale, il titolo oggi ha perso il 3,07%, anche se dobbiamo ricordare che nelle scorse sedute aveva spesso strappato anche al rialzo. La giornata è stata debole per tutto il settore dopo i conti deludenti pubblicati da Credit Suisse. In particolare gli amministratori di Credit Suisse hanno anche sottolineato che sui conti hanno pesato le nuove normative che piano piano stanno entrando a regime e che quindi hanno un effetto, diciamo così, di sistema, come hanno pesato su Credit Suisse man mano andranno a pesare sul resto delle banche. Ancora per quello che riguarda Saipem invece il peggior titolo prima ancora del Banco Popolare, meno 3,35%, oggi i conti di Saipem. Oggi ci sono stati i conti di Saipem, conti che sono comunque stati buoni per il 2010 con un utile netto cresciuto del 13,1% e un dividendo di 0,63 euro. Gli analisti però non hanno particolarmente apprezzato le indicazioni sul 2011, giudicandole molto, molto prudenti e in qualche modo deludenti. Per il prossimo anno la società infatti si attende una crescita dei ricavi del 5% e dell'utile netto anche del 5%, insomma risultati non proprio non brillanti per il mercato. Bene invece oggi Fondiere Assai. Sì, Fondiere Assai dopo i cali delle scorse settimane sta lentamente riprendendo quota anche sulle attese che il gruppo possa fare meglio per il 2011 anche rispetto alla guidance che ha indicato. Lo stesso nuovo amministratore delegato Emanuele Arbetta nei giorni scorsi aveva detto che migliorare gli obiettivi del budget 2011 è possibile. In questi giorni si stanno arrivando una serie di report, di nuovi studi che stanno migliorando il giudizio sul titolo. E adesso SNAM Rete Gas, dovrebbe essere in collegamento con noi l'amministratore delegato di SNAM Rete Gas, dottor Carlo Malacarne, buonasera. Sì, buonasera. Mi scusi se metto fretta, ma siamo proprio a ridosso del GR. Allora, i vostri conti, intanto come ha reagito il mercato e poi veniamo ai conti. Siete il secondo miglior titolo dopo Fondiere Assai, più 1,22%, utile più 51%, a quanto è il dividendo, dottor Malacarne? Beh, allora l'utile aggregato dobbiamo considerare perché abbiamo fatto l'acquisizione nel 2009 con un 17% di aumento dell'utile operativo e un 19% dell'utile netto, per cui molto buono il risultato. Il dividendo 23 centesimi vuol dire un dividend yield del 6,2% con una proiezione nei prossimi 2 anni di un 4% di aumento all'anno con base 2010 23 centesimi. Dottore, a me che sono cliente, il fatto che SNAM Rete Gas guadagni così tanto deve preoccuparmi? No, SNAM Rete Gas è un'attività regolata per cui guadagna quanto l'autority decide. Il problema è che SNAM Rete Gas è brava a fare efficienza. Abbiamo fatto l'integrazione di 2 società e a un anno di distanza abbiamo avuto un cost cutting di 60 milioni di euro. Cioè, taglio dei costi? Taglio dei costi di 60 milioni di euro su 400, per cui siamo stati bravi ad ottenere questi risultati. Gli investimenti sul 2011 e le prospettive, visto che lei ha chiarito, tra l'altro è ingegnere, spero non si sia offeso. Sì, certo, ci mancherebbe. Ingegnere ogni tanto si offendono, vabbè. No, ma avete annunciato un dividendo di 23 centesimi di euro, le prospettive sul 2011, l'obiettivo intanto chiaramente su ricavi è utile. Sì, allora il business regolato cresce in linea con il RAB, che vorrebbe dire il valore degli asset. La nostra crescerà intorno al 4%, ci aspettiamo un utile operativo in crescita intorno al 4%. E sul fronte investimenti, mi scusi? Sul fronte investimenti avremo 1,5 miliardi di investimenti nel 2011, ne abbiamo fatti 1,540 miliardi nel 2010, per cui siamo in linea con gli investimenti di quest'anno. Beh, in bocca al lupo anche per gli azionisti, quindi dividendo, quando verrà staccato il dividendo? Giusto il 26, per... viene staccato il 26 di maggio. Il 26 di maggio, ed è un 15% in più rispetto al, rispetto 2009. All'anno scorso. Allora, grazie anche per la disponibilità, visto che era in conference call con l'amministratore legato di Snam Rete Gas, l'ingegner Carlo Malacarne. Grazie a voi, buonasera. Guido Maurino, ti avevo messo fretta perché aspettavo appunto questa chiamata da Snam Rete Gas. L'ultimo titolo che ho per te, Terna. Sì, Terna oggi è andato bene, ha guadagnato lo 0,99%, è un titolo difensivo, per cui una giornata non particolarmente brillante per le borse, gli acquisti si sono concentrati su questa società che ha potuto godere anche di un report positivo di Citigroup. Grazie a te e a tutti i colleghi dell'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore. Allora, alcuni li devo leggere perché ogni tanto respiriamo. Tra i suggerimenti su dove mandare al prossimo viaggio il ministro Tremonti, i sindacalisti, c'è chi li vorrebbe mandare anche in posta. Cioè, volete mandare in tutti i posti, le poste italiane, giusto? Poi c'è chi propone la Parigi Dakar. Per favore. Invece, due messaggi criptici. Cos'è il premio Limoni che modono? Non lo so. E c'è qualcuno che diceva: insomma, mi dispiace che lei non abbia fatto degli studi compiuti, mi faccia capire perché, così magari così li recupero. €25,4 miliardi recuperati da Agenzia delle Entrate, INPS ed Equitalia, tra imposte, tasse e contributi evasi, nel caso specifico 10 miliardi e 4 derivanti dai controlli appunto dell'Agenzia delle Entrate, e poi 6 miliardi e 6 di minori crediti d'imposta, 6 miliardi e 4 invece pertinenti all'INPS come recupero dell'evasione contributiva, e 1 miliardo e 9 quello che ha recuperato Equitalia. Siamo in collegamento con Attilio Beffera, che è direttore dell'Agenzia delle Entrate. Direttore, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Dottor Beffera, come chiarivo, 25 miliardi e mezzo non sono solo, diciamo, la parte di tasse evase, perché ci sono 6 miliardi e mezzo che ha recuperato l'INPS di evasione di contributi, contributi previdenziali o quant'altro, un 12% in più, e quasi 2 miliardi che ha recuperato Equitalia per altri enti statali locali, sappiamo... varie forme, e sono anche qui, c'è un 20% in più. La fetta grossa però la fate voi, perché avete il 10 miliardi e mezzo. Com'è la variazione sul 2009? Sul 2009 il 10 miliardi e mezzo erano 9 miliardi e 100 ed era anche in parte incrementato da 500 milioni di aiuti di Stato che avevamo recuperato. La fetta grossa però è anche strutturale, è data oltre che dal recupero dell'evasione, e stiamo parlando di cifre incassate che quindi hanno giocato nei conti pubblici dello Stato, anche una minore spesa di circa 6 miliardi e mezzo di false compensazioni che non ci sono più, che abbiamo recuperato. Qui sono 17 miliardi il contributo in termini di cassa dell'Agenzia delle Entrate. Ah, ecco, per cui oltre ai 10 miliardi derivanti da controlli formali, che è un più 15%, se ben ho capito, a spanne sul 2009, voi avete anche avuto una minor, come possiamo chiamarla, minor spesa. Lo Stato ha speso meno, perché la compensazione è come pagare un rimborso per imposte eccedenti, no? Quindi una minore spesa di 6 miliardi e 6, perché abbiamo messo in atto sia una norma che ha frenato le compensazioni, sia una serie pesante di controlli su queste compensazioni false, che ci ha dato la possibilità di bloccare questo fenomeno di uso della compensazione come bancomat per pagare le imposte. Dunque, dottor Beffera, visto che lei è il direttore appunto dell'Agenzia delle Entrate, lei oggi ha dichiarato però, insomma, l'evasione è in calo seppur di poco, che insomma è un'ammissione che sta calando troppo poco, io così la capisco. E, sì, diciamo... Prego. Prego, prego. Vorrei intanto capire bene cosa vuol dire seppur di poco, poi ho un'altra domanda per lei. Dunque, il problema è questo: noi abbiamo un indice che è un indice riconosciuto, che è l'andamento della differenza fra l'IVA che incassiamo e i conti pubblici di contabilità nazionale che sono di emanazione dell'Istat, quindi le risorse interne. Questa differenza è un segnale di compliance, cioè di adesione alla spontanea al versamento delle imposte. Più è larga la differenza e più c'è evasione. Ecco, questa differenza, questo gap, si sta restringendo. Nel 2010 si è ristretto. Si è ristretto sia perché comunque è stata versata, l'incremento dell'IVA è maggiore dell'incremento delle risorse interne, sia perché le compensazioni giocano negativamente perché IVA non versata, e quindi i due elementi insieme ci dicono che c'è stata una riduzione dell'evasione. È poco? Direi di sì, perché come diceva lei all'inizio, abbiamo una stima di 100 miliardi, 120 miliardi di evasione. Ne abbiamo recuperati dal punto di vista fiscale 17, quindi di questi 17 non tutti sono strutturali. Strutturali intendo, non è che allargano la base imponibile per i futuri anni tutti e 17, una parte sicuramente sì, e quindi da questo si deduce che c'è ancora molto molto da fare. Allora, questo se lo dice lei, non abbiamo motivo per dubitarne, ci eravamo fatti anche noi un'idea in questo senso, anche perché il Centro Studi Confindustria l'anno scorso aveva stimato che già nel 2009 il sommerso fosse bruscamente aumentato come conseguenza anche in parte della crisi, superando il 20% del PIL. Immaginiamo che questa tendenza ci possa essere anche nel 2010, visto che lei riconosce che nonostante i tentativi è difficile aggredire questa massa enorme di evasione fiscale, allora io voglio dire una cosa, visto che vedo i messaggi al 349-238-6666. Qua si tratterebbe, poi magari mi darà torto, dottor Befera, ma si tratterebbe di arrivare ha un'evasione fiscale simile a quella degli altri paesi, cioè noi invece che 200 miliardi la portassimo alla metà, no, a 100, anche a 60, nessuno dice che arriveremo al mondo perfetto, non stiamo immaginando un mondo, a lei basterebbe arrivare alla metà? Ma guardi, chiaramente c'è una parte di evasione che chiamiamo fisiologica o che comunque hanno un po' tutti i paesi occidentali. Ecco, noi abbiamo invece questo macigno che frena i nostri conti e che crea difficoltà al paese. Ora, il lavoro che stiamo facendo è proprio quello di ridurre al massimo questo nostro. Ma mi dica una soglia che lei riterrebbe accettabile. Se noi già riuscissimo ad avere un livello di evasione, come diceva lei, pari alla metà di quello attuale, significherebbe aver risolto tanti problemi del nostro paese. Cioè 100 miliardi in meno, cioè ci terremo 100 miliardi. Lei sta parlando di base imponibile. Base imponibile, 100 miliardi in meno di base imponibile evasa. Quindi teniamoci altri 100 miliardi di base imponibile evasa, che vuol dire a spanne 50 miliardi in più di gettito, no? Di gettito, sì, poco meno. Di poco meno, 40 saremo miliardi. Saremo in linea a quel punto con molti dei paesi occidentali. Quindi potremmo tenerci 40 miliardi di gettito evaso, vero e proprio, e 40 miliardi invece li incasseremo di più. Già quelli... Che cosa significa per lo Stato italiano incassare 40 miliardi in più l'anno? Beh, potremmo fare le misure di rilancio dell'economia e sistemare anche 2-3 punti percentuali di deficit, no? Certo. E questo voglio dire. E lo dico in tutto mantenendo una bella fetta di evasione. Lo dico a chi scrive, che insomma è preoccupato. Mantenendo una fetta di evasione che, ripeto, va sempre combattuta, perché ma sicuramente significa riportare il livello di evasione nella media degli altri paesi. Un'ultima domanda per lei. Ma perché, ce lo chiedono tantissimi ascoltatori anche questa volta, ma perché non si riesce a generare un contrasto all'evasione per cui io porto in detrazione tutto un insieme di lavori, l'idraulico, l'elettricista, e quindi chiedo e sono incentivato a chiedere la fattura, invece che sentirmi dire fattura o no? Ma guardi, ci possono fare mille considerazioni, nessun paese ha, che se ne dica, una totale detraibilità delle spese, c'è qualche esempio, ma anche da noi, tutte le spese di ristrutturazione sono spese che vengono detratte del 36%, no? Così come le spese per gli impianti fotovoltaici e quant'altro. Ci sono tutta una serie di spese che vengono detratte. Guardi che spesso c'è un problema di convenienza economica, cioè non pagare il 20% subito e magari avere una detrazione maggiore, l'alternativa non è così secca, perché la detrazione si prende a fine anno, spesso non è completa, comunque serve a ridurre le imposte, invece si prende il 20%, si paga il 20% in meno al volo. Tra l'altro vorrei aprire una parentesi, sia ben chiaro, quando l'idraulico non ci fa la fattura, l'evasore non è l'idraulico, l'evasore dell'IVA è chi non paga quell'IVA, che è il consumatore finale. Anche questo è una tendenza. No, me la rispieghi questa, perché io ho sempre capito che poi l'evasore era l'idraulico. Allora, sono tutte e due. Ah, ecco. Perché l'IVA colpisce il consumatore finale, non l'idraulico, che non è un consumatore finale. Lei dice, cioè no, ho capito, lei dice con l'idraulico, ma chiunque non emette rifiuto. Ho capito, lei dice su 100 euro diciamo di riparazione che dovresti fatturare, se poi tu mi dici senza fattura sono 80, l'idraulico risparmierà un 20-30 euro, dipende da quello che è la sua. No, l'idraulico risparmia le imposte dirette. Esatto, che su 80 euro magari saranno 20, non lo so, mi faccio una stima. Sì, 20, 30, 40. Noi risparmiamo comunque 20 euro, quindi siamo noi stessi evasori. L'evasore siamo noi, siamo anche noi. Anche noi. Facciamola questa cosa. No, ha ragione a ricordarla. Ecco, in quel momento c'è quell'esame di convenienza, pago subito 20 euro in meno o fra un anno mi porto in detrazione tutta una parte di quella spesa. Mm-hmm. La seconda considerazione che va fatta sui conti pubblici, di fatto la cosa è del tutto indifferente, no? Perché se paga paga in più uno e paga in meno l'altro, perché se lo detrae la differenza diventa minimale, c'è soltanto un effetto, se vuole, redistributivo. Beh, insomma, che non è poco, e comunque invece a mio avviso ci sarebbe anche... Posso dire che abbiamo scoperto che quando c'è la detrazione al 36% per ristrutturazione aziendale con obbligo di presentazione fattura, la fattura viene presentata da chi sostiene la spesa, non è detto che venga registrata da colui che ha incassato i quattrini, tanto è vero che abbiamo messo una ritenuta del 10% per individuare i soggetti. Ah, ecco, per cui, questo va visto. Per cui, ci sono varie motivazioni. Un'altra motivazione è di tipo emotivo. Lei pensi se deve portare il suo bambino dal pediatra, di cui ha piena fiducia per la malattia del bambino, nei confronti del quale ha piena fiducia per la malattia del bambino, e il pediatra le chiede di non fatturare. Lei che fa? Cambia pediatra o accetta il pagamento in nero? Guarda, non lo so, perché io chiedo sempre la fattura per motivi anche appunto di... miei, di dichiarazione. Allora, vediamo però... di fare altri. Sì, assolutamente, voglio dire, però attenzione, se bambina. Figuri se lo dico al direttore dell'agenzia delle entrate che non chiedo la fattura al pediatra. Dopodiché, voglio dire, la chiedo veramente perché la porto in detrazione, però, no, però va bene tutto. Sì. Buono, sì, ma non tre volte. Ci sono anche componenti psicologiche. Questa mi convince meno, perché comunque posso dire che è un buon pediatra ma un pessimo cittadino. Detto ciò, ho capito la sua obiezione in una battuta. Mi dice, secondo lei il federalismo fiscale potrebbe portare a un aumento della tassazione? Che idea si è fatto? Scusi, non ho sentito. Il federalismo fiscale potrebbe portare a un aumento della tassazione oppure sarà... Così, nella logica in cui è costruito, non riesco a capirlo. Non riesce a capire il federalismo fiscale? Non riesce a capire se... non riesco a capire dove ci potrebbe essere l'aumento. Ma se ci potrebbe essere o dove ci potrebbe essere, perché... No, allora la mia risposta è, secondo me non porta aumento. Ah, ecco, perfetto. Io mi fido anche di questo. Grazie, e le ribadisco che le ricevute le chiedo sempre anche al pediatra di mio figlio. Grazie al direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera. Arrivederci. E come sentite la sigla, che preannuncio lo speciale che andrà in onda subito dopo, dedicato alla situazione in Egitto, condotto da Gigi Donelli, da Sebastiano Berisoni, l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.